inverno freddo, nevica, Milano è tutta bianca, la vita corre pallida, ripetitiva e stanca, i giorni si succedono come una malattia, nell'altalena solita di sconforto ed euforia, se provi a alzare la testa ti guarderanno male, non sanno se è un artista oppure un criminale, ma prima di morire nella malinconia, concediti, concediti, concediti Maria. I postmoderni indomiti si vestono eleganti, dissertano e disertano sui temi più importanti, son frivoli, superflui, sanissimi e prudenti, saggezze discutibili che rendono impotenti, e alle scadenze prossime si tengono preparati, non vedono che nevica, che siamo già arrivati, ma tu lasciali perdere, scappiamocene via, concediti, concediti, concediti Maria. La vita rompe gli argini, travolge le incertezze, non bastano le poesie, qua ci vogliono le carezze, tra l'essere e il non essere inesorabilmente, il tuo corpo bianchissimo misura il mio presente, tra l'essere e il non essere del principe danese, il corpo inesauribile oltre la fantasia, il tuo corpo bianchissimo è più di una poesia, concediti, concediti, concediti Maria. Ma tu sei forte, sai, è l'unica a credere in questa morte che ci dà. Ma in questi tempi rapidi, distanza e consistenza, peggiore della morte, sai, sarebbe l'impotenza. Se c'è qualcosa prendilo e non ti far pregare, sarebbe imperdonabile potere non provare, con il gusto del brivido, con grande cortesia, concediti, concediti, concediti Maria. Concediti, concediti, non servono più parole, al tempo che comincia ed a qualcuno che ti vuole, al fatto che nel mondo siamo circa 3 miliardi e noi siamo solo in due, qui fa prima che sia tardi, non vedi come nevica, Milano è così lieve, non stare a domandarti se si vuole o se si deve, ma dammi carta bianca e vieni a casa mia, concediti, concediti, concediti Maria. Concediti, concediti, concediti Maria. Concediti, concediti, concediti Maria. Concediti, concediti, concediti Maria.